Allora, adesso ci sarà l'intervento del professor Renato Uglione, che è presidente dell'Associazione Italiana di Cultura Classica della Delegazione di Torino, il quale appunto ci presenterà una relazione sull'insegnamento della letteratura cristiana antica nella scuola media superiore. Io ringrazio gli organizzatori per avermi invitato, ho accettato molto volentieri perché questa è un'occasione splendida per tornare a Trento, dove ho lasciato un pezzo del mio cuore. Ecco, sono vissuto tre anni anche un po' pionieristici degli inizi della facoltà di lettere e quindi ricordo con nostalgia, ecco, quel periodo. Vi ringrazio per avermi offerto questa occasione per tornare. Ecco, questa mia conversazione cercherà di essere il più schematica possibile, di offrire soprattutto spunti di riflessione e di suscitare, perché no, anche provocazioni utili per un eventuale dibattito, se è previsto. E tanto per cominciare subito con una provocazione, ecco, penso proprio che il titolo della mia comunicazione dovrebbe essere modificato nel modo seguente: come non si insegna la letteratura cristiana antica nei licei. Non penso infatti di fare una sorprendente rivelazione nell'affermare che questo insegnamento non ha mai goduto, fin dalla sua istituzione, di buona salute. Non possiamo quindi neanche dare la colpa ai tempi attuali. No, no, direi che fin dall'inizio è stato un insegnamento molto precario a livello liceale. La letteratura cristiana antica nei nostri licei, salvo le solite nobili eccezioni che confermano la regola, è generalmente tollerata, snobbata, sentita come un corpo estraneo e quindi insegnata male o addirittura non insegnata affatto. Se qualcuno ritenesse questo quadro della situazione un po' troppo drastico, fosco, pessimistico, potrei facilmente opporre alcuni dati di fatto, rivelatori dello stato di crisi e di malessere in cui si dibatte e si è sempre dibattuto questo insegnamento. Si pensi, per esempio, allo spazio riservato dai manuali e dalle antologie scolastiche della letteratura greca e latina alla parte cristiana. Salvo anche qui le solite nobili eccezioni che ci sono, per fortuna, penso ad alcune storie letterarie recenti che ritengo segnino una inversione di tendenza, non si può in genere non denunciare una discriminazione ai danni degli autori cristiani. Ho in mente, per esempio, diverse letterature greche, anche famose, ove il più insignificante poeta ellenistico trova più calorosa e più generosa ospitalità di un importante padre della Chiesa. Oppure si pensi allo spazio riservato dai programmi ministeriali agli scrittori cristiani nel canone degli autori da leggere obbligatoriamente nel testo originale. Per il latino è previsto il solo Agostino e per di più in alternativa a Seneca. E per il greco addirittura non è contemplata la lettura di alcun autore cristiano, tranne forse nel ginnasio c'è la possibilità di leggere qualche pagina del Nuovo Testamento, ma senza una, direi, una indicazione precisa, una prescrizione, ecco. Un termometro, se mai ce ne fosse bisogno, estremamente rivelatore dello stato di cattiva salute della nostra disciplina è rappresentato dagli esami di maturità. Cito tra le tantissime una significativa testimonianza dell'allora professor Michele Pellegrino, che nel 1964 denunciava: le risposte dei candidati alla maturità mostrano generalmente che vale ancora l'adagio Christianum est, non legitur. Da allora non possiamo certo affermare che le cose siano sensibilmente migliorate. Posso al riguardo addurre la mia esperienza personale. Raramente ho avuto la soddisfazione di vedere i propri allievi interrogati in maniera seria su questa parte del programma. Apro a questo proposito una parentesi. Molto spesso mi è capitato di assistere ad una situazione davvero drôle, direbbero i francesi. Con il commissario d'italiano, parlo dell'esame di maturità sempre, che sistematicamente si lamenta, tutti hanno fatto questa esperienza, tutti gli insegnanti, no? Si lamenta delle gravi carenze nel programma della letteratura italiana del Novecento, fa mettere a verbale delle volte, eccetera. E il collega di latino e greco invece che al contrario, altrettanto sistematicamente, ignora in sede di colloquio orale quasi un terzo, anzi un terzo abbondante, del programma svolto, ossia la letteratura cristiana. Quindi da una parte c'è un commissario che si lamenta perché non è stato svolto il programma, dall'altra c'è un altro commissario che non interroga una parte abbondante del programma che è stato svolto. E se questo è a grandi linee il quadro sconfortante della situazione, cerchiamo di analizzarne allora brevemente le cause. Aprirei questo capitolo De causis corrupte, institutionis, con quelle motivazioni che potremmo definire ideologiche, vale a dire quei pregiudizi classicistici duri a morire, nonostante siano ormai trascorsi decenni da quella rivoluzione copernicana che ha visto tra i suoi artefici in Italia il nostro professor Quacquarelli, dopo il professor Lazzati, Pellegrino, professor Quacquarelli ha dato un contributo notevole a questa rivoluzione copernicana, ecco, grazie alla quale i padri della Chiesa sono diventati scrittori. Scrittori ai quali accedere non esclusivamente con preoccupazioni teologiche, come a delle fonti, a dei documenti di teologia, di filosofia, di spiritualità, di liturgia, ma anche per cogliere i valori più propriamente letterari presenti nelle loro opere. Autori, cioè, che hanno lasciato sì importanti testimonianze del dibattito teologico dei primi secoli cristiani, ma pure moltissime pagine di alto valore poetico e letterario, che meritano di essere fatte oggetto di studio. Autori, infine, che se per molti versi rappresentano una rottura con la civiltà letteraria precedente, per altri si presentano come i continuatori e gli eredi della tradizione classica greca e latina. Una visione del mondo classico non si può quindi considerare completa senza la letteratura e il pensiero degli antichi scrittori cristiani. Continuità dunque nella distinzione, cristianesimo come componente organica della classicità, presenza che non si può dissimulare nel generico. È la componente cristiana che ci ha trasmesso l'antichità pagana, non dovremmo mai dimenticare questo dato molto importante. Una tradizione ininterrotta e organica vieta di vedere isolatamente il patrimonio culturale greco-latino. Merito dunque di questa rivoluzione copernicana è stato quello di avere ampliato la visione un po' troppo angusta del mondo classico, limitata agli autori pagani, allargandola al patrimonio letterario cristiano. Ora, se i frutti di questa rivoluzione da tempo si sono fatti sentire nell'ambito della ricerca scientifica e degli studi universitari, ove, apro la parentesi, la letteratura cristiana antica è ormai praticamente insegnata in tutte o quasi tutte le università italiane, la stessa nostra, tra virgolette, facoltà di Trento è nata subito, no, con una cattedra di letteratura cristiana antica, fin dal suo sorgere, ecco. E se pensiamo che nell'immediato dopoguerra esistevano solo due cattedre di questa disciplina, a Torino, grazie a Pellegrino nel 1848, e a Bari, avremo una idea dei progressi enormi, anche solo a livello istituzionale, intervenuti in questi decenni in questo settore scolastico. Ecco, purtroppo non possiamo affermare la stessa cosa a proposito della scuola media superiore, ove si debbono lamentare ancora troppo vaste e incomprensibili e anacronistiche sacche di resistenza e di ostruzionismo nei confronti della letteratura cristiana antica. A spiegare una tale situazione concorrono naturalmente anche altre cause, l'impreparazione per esempio degli insegnanti. A questo proposito dobbiamo però essere molto chiari. Non intendiamo certo colpevolizzare i docenti di lettere classiche, pochi o tanti che siano, impreparati in quest'area disciplinare, quanto piuttosto denunciare l'incoerenza della politica scolastica governativa che da un lato introduce la letteratura cristiana come parte integrante dei programmi di latino e greco, e dall'altra però ecco, non prevede un'adeguata preparazione in tale disciplina dei futuri docenti, che solo si può ottenere inserendo la letteratura cristiana antica nel curriculum dell'indirizzo classico, di lettere classiche, come materia obbligatoria, e consigliando anche vivamente la frequenza di corsi come storia del cristianesimo antico. Mi spiego, è come non si può nemmeno concepire un docente di lettere classiche privo di conoscenze, di storia e di filosofia antiche. Come si può concepire un bravo professore di latino e di greco completamente all'oscuro del pensiero di Platone, di Aristotele, dello stoicismo, o completamente all'oscuro delle più elementari nozioni di storia greca e romana? Sarebbe una cosa scandalosa, no? Così è altrettanto inconcepibile un docente di lettere classiche completamente a digiuno delle più elementari, sottolineo elementari, non si chiede una preparazione teologica, ma ecco, delle più elementari nozioni di teologia e storia del cristianesimo dei primi secoli. Se per legge deve insegnare la letteratura cristiana antica, dovrà conoscere a grandi linee i fondamenti della teologia, della dogmatica cristiana, i fondamenti anche della letteratura cristiana, della scienza biblica. Mi pare, no? Presentando gli autori cristiani, imbatte continuamente in eresie, arianesimo, gnosticismo. Qualcosa dovrà pur sapere un insegnante di questi movimenti, di queste eresie. Parlerà della formazione del Nuovo Testamento, dovrà essere informato. No, è mai possibile che ci siano insegnanti che sono informati, che sanno tutto sulla questione omerica? Siamo ben contenti di questo. Ma che al contempo non sanno nulla sulla questione sinottica, che sono convinti che i poemi, ben consci che i poemi omerici non sono dei poemi scritti a tavolino nell'ottavo secolo avanti Cristo da un poeta chiamato Omero, ma nel contempo sono convinti invece che i Vangeli siano, che so, la biografia di Gesù scritta a tavolino da quattro biografi di nome Marco, Matteo, Luca e Giovanni. Eppure ci sono di questi casi, no? Di insegnanti di retorica, che sono tutto sulla questione omerica, proprio nulla invece della questione sinottica, che tra l'altro è una questione altrettanto affascinante. Io vedo, parlo per esperienza personale, gli allievi molto attenti in prima liceo quando presento la questione omerica, tutte le nuove anche teorie, eccetera, ma li vedo altrettanto attenti in terza liceo quando presento la questione sinottica. Sono affascinanti tutti e due. Accennerei infine, per completare il quadro, ad un altro grosso ostacolo che in questi ultimi 20 anni si è aggiunto ad aggravare la già non rosea situazione. Già mi avete capito. Mi riferisco al meccanismo perverso dei nuovi, si fa per dire, esami di maturità. Sappiamo tutti come l'indicazione anticipata delle materie d'esame ai primi di aprile comprometta seriamente una dignitosa conclusione dei programmi delle materie escluse dalle prove d'esame, nel nostro caso di quella letteratura greca o latina non oggetto di colloquio orale. E siccome la letteratura cristiana rappresenta la parte finale del programma di letteratura, è facile comprendere chi sia in definitiva a fare le spese di questo iniquo sistema. Concludendo il discorso sulle cause della crisi, ecco, direi che una situazione come quella descritta riveli sempre più la sua assurdità e insostenibilità. Occorre al più presto superare questa forma mentis indifferente o peggio ostile nei confronti della letteratura cristiana greca e latina, sia essa frutto di un errore didattico, di un pregiudizio classicistico, sia essa conseguenza di una scelta voluta, sotto cui si cela in realtà il rifiuto più o meno consapevole dei contenuti di quella letteratura, come denunciava già nel 1983 in un articolo molto bello sul nostro tempo il professore Eugenio Corsini. Occorre tutti insieme iniziare o proseguire pazientemente quest'opera di sensibilizzazione che porti finalmente anche nei nostri licei ad una svolta, ad una inversione di tendenza sul piano didattico e culturale, che ponga termine a questo troppo lungo e anacronistico ostracismo nei confronti degli autori cristiani. Gli effetti devastanti di questa emarginazione della letteratura cristiana antica dall'orizzonte culturale dei nostri studenti liceali sono davanti agli occhi di tutti e consistono in quell'enorme, chiamiamolo così, buco nero che si registra nella preparazione culturale anche di persone di elevato livello di istruzione. Impressionante l'ignoranza generale, no? Proprio a livello di opinio communis, che emerge anche leggendo i giornali. Proprio queste persone anche molto colte, conoscono magari tutte le letterature contemporanee, cioè persona, conoscono la filosofia, niente da dire, ma per quanto riguarda questo settore biblico, cristiano, grande ignoranza, per cui noi assistiamo, no, a questi episodi, direi, di incultura. Giornali di livello nazionale, che so, La Repubblica, La Stampa, giornali di diffusione nazionale, che si danno mucchio di arie, tra l'altro, no, come, che poi pubblicano in prima pagina, quante volte capita? A me fa rabbia, penso a dei biblisti serissimi che hanno dedicato tutta la vita a questi studi con grande serietà, conoscendo tutte le lingue antiche e moderne, e hanno mai avuto l'onore di un trafiletto sul giornale. E poi invece un fessacchiotto qualsiasi, in genere americano, sedicente teologo biblista, che scopre una stupidaggine in prima pagina sulla stampa. No? Grande rivelazione, Gesù non è mai esistito. Cose di questo tipo, no? E il giornalista fesso che subito ospita come una grande rivelazione. Questo la dice lunga sull'ignoranza sia del giornalista, sia dei colleghi, sia del direttore del giornale, sia del pubblico al quale il giornale si rivolge. C'è la qualsiasi fesseria nel nostro campo che poi magari riflette tesi di fine Ottocento, ormai no, abbattute da decenni, vengono presentate come una grande novità in prima pagina sul giornale. Questo la dice lunga su questo buco nero. Perché quando parlo di effetti devastanti non voglio fare l'apocalittico, mi pare che si tratti di un problema grosso. Ora, questo buco nero è provocato da questo salto a pie pari di 1000 anni di storia, di civiltà, di cultura e delle espressioni letterarie e linguistiche che le hanno veicolate. Se poi aggiungiamo anche la cultura biblica, non sono 1000 anni, sono poi 2000-3000 anni. Ecco, si pensi per rimanere nell'ambito letterario, rimaniamo proprio così a livello di liceo, di problemi quindi soltanto letterari e non culturali, no? In senso lato. Ecco, per rimanere nell'ambito letterario, si pensi all'enorme iato che si è venuto a creare tra letterature classiche e letterature moderne, con l'eliminazione dello studio della letteratura cristiana antica, che solo consente di cogliere veramente l'evoluzione degli antichi generi letterari tradizionali e la loro talora radicale trasformazione, che ha dato origine in alcuni casi alla nascita di generi completamente nuovi. Non scendo in esemplificazioni, ma tutti comprendono questo. In ogni caso, ecco, per avere una sintesi molto bella, recente, ecco, io consiglierei il volumetto di Excursus sui generi letterari, curato dai professori Ezio Gallice e Clementina Mazzucco, hanno curato la parte cristiana della letteratura cristiana ed è un volumetto che è abbinato ad una nuova letteratura latina per licei della nostra di Torino, professoressa Giovanna Garbarino. Ci sono tre volumi e poi c'è questo volumetto abbinato di excursus sui generi letterari. C'è tutto al fondo una parte dedicata alla letteratura cristiana. Veramente lì si tocca con mano questa evoluzione dei vari generi, no? Quelli classici che poi attraverso la letteratura cristiana sono... E uno veramente ha in sintesi un'idea. Saltando quello si taglia di netto. Per cui i nostri ragazzi passano direttamente dalle letterature classiche a quelle moderne senza quel collegamento che invece è fondamentale. Oppure per passare, e direi anche questo è molto importante, l'ultima cosa che dico, per passare all'ambito più propriamente linguistico, ho parlato prima di letteratura, ambito linguistico, pensiamo all'analogo iato di identiche proporzioni che separa nella prassi didattica il latino classico dalle lingue romanze. C'è il latino classico, letterario, e poi le lingue romanze. In mezzo nulla. E allora poi si ha un bel dire, ma l'italiano deriva dal latino, l'italiano è una fase della evoluzione del latino, come si può fare questo se si salta proprio una fase importantissima che è quella cristiana, che collega latino e italiano. Ecco, anche qui la mancanza di tempo mi costringe a rinviare ad un mio più articolato intervento ad un dibattito sull'insegnamento linguistico del latino apparso sul numero 6 della rivista Aufidus 1988. In esso, sintetizzo, sostenevo la necessità di una maggiore storicizzazione dell'insegnamento della lingua latina, più attento al suo rapporto genetico di continuità con la lingua italiana. Un insegnamento che sappia andare oltre la pur necessaria descrizione sistematica della lingua, per cercare di avviare progressivamente gli allievi alla intuizione delle fasi evolutive del latino, delle sue varie facies, dei suoi livelli e registri linguistici, aiutandoli a cogliere la distinzione tra fatti arcaici o tardi e fatti più propriamente classici, letterari, a percepire la distanza che separa la lingua colta da quella colloquiale quotidiana, ad individuare specialmente nel sermo vulgaris i successivi esiti romanzi e in particolare italiani. In altre parole, un insegnamento che si sforzi di offrire ai discenti un quadro del latino inteso come uno strumento che si modifica nel tempo, come un sistema in movimento che reca già in sé elementi propri delle lingue romanze, come il punto di partenza di un lungo processo storico, che prendendo le mosse già dall'epoca classica, giunge senza iati e soluzioni di continuità fino ai primi documenti della lingua italiana. Il che significa ribaltare la prassi didattica tradizionale, che privilegiando il diverso, cioè gli elementi di differenziazione che oppongono il latino all'italiano, ed esaltando come termine di confronto statico il latino classico, ha messo in ombra nella coscienza linguistica dei discenti la presenza di fatti italiani nel latino e di fatti, dico italiani tra virgolette ovviamente, e di fatti latini tra virgolette nell'italiano. Con la conseguenza didatticamente e culturalmente nefasta, che in Italia, ossia in un paese di lingua neolatina, docenti e studenti si accostano, ahimè purtroppo si sono sempre accostati, è una delle cause della crisi del latino nella scuola, si accostano al latino come ad una lingua straniera, anziché come ad un semplice stato di lingua diverso, che rispetto all'italiano si configura da un punto di vista diacronico come sua radice e da un punto di vista sincronico come sua componente predominante. È chiaro che una simile rivoluzione, se rivoluzionaria si può chiamare, ripeto, una proposta didattica che dovrebbe apparire come la più ovvia e scontata in un paese, ripeto, come il nostro, di lingua neolatina. Una simile rivoluzione comunque coinvolgerebbe non solo l'insegnamento della grammatica e della letteratura latina, ma altresì il canone, e veniamo a noi, degli auctores, la cui lettura in testo originale è prevista dai programmi ministeriali. Un canone che dovrebbe essere necessariamente allargato, e non solo quantitativamente e cronologicamente. I nuovi programmi di latino per il liceo classico hanno già in parte soddisfatto questa esigenza, inserendo Plauto e Agostino. Ma anche qualitativamente, cioè occorrerebbe dare spazio, oltre che ad opere irrinunciabili, ovviamente, non si può fare un corso di liceo classico saltando un Virgilio, non leggendo un Cicerone o un Platone, questo è ovvio, ma oltre che ad opere irrinunciabili di alta letteratura, anche quei testi che rappresentano una testimonianza interessante dei vari registri e livelli linguistici del latino, anche di quelli più umili e quotidiani, e della sua lenta evoluzione verso le forme romanze. E tra queste testimonianze di latino popolare e quotidianus occupano, come si sa, un posto di primaria importanza molte espressioni letterarie della prima latinità cristiana, come le traduzioni bibliche, le omelie, le preghiere liturgiche, le iscrizioni funebri, gli atti dei martiri, le vite dei santi, i racconti di pellegrinaggio, la cui lettura, non dico di leggere tutto, ma qualcosa, no? La cui lettura contribuirebbe non poco a consolidare e a storicizzare nella coscienza critica dei discenti il rapporto genetico tra latino e italiano. Concludo questo quadro un po' sconfortante con un auspicio, una nota di ottimismo. Ecco, l'auspicio è questo, che dopo il crollo di tanti muri, ci sia dato finalmente di assistere anche al crollo di quelle barriere ideologiche e didattiche altrettanto assurde e anacronistiche che hanno finora emarginato dalle nostre aule scolastiche gli antichi scrittori cristiani. E in quest'opera di demolizione di non più tollerabili steccati, una collana di testi patristici come quella di Città Nuova, che con intenti di seria e rigorosa divulgazione rende accessibile il ricco patrimonio dell'antica letteratura cristiana, ecco, io credo che una collana del genere possa recare veramente un contributo non irrilevante. Grazie. Al di là della convenzionalità, devo proprio dire un ringraziamento e una viva soddisfazione per quello che è stato detto dai tre relatori. In particolare per questa considerazione che, in certo qual modo, non mi aspettavo, ma mi fornisce veramente l'attualità, l'interesse vivissimo. Ecco, è impressionante davvero questo ostracismo occulto, quieto, di cui per tanti decenni siamo semplicemente vittima, e tutti, nessuno escluso. Se io ripenso, per esempio, che cosa del mondo patristico a noi in un liceo di seminario è stato detto o non è stato detto, bisogna dire che anche quelle scuole erano pianificate a livello di questo discorso totalmente profano, vittima dell'ostracismo, perché mi ricordo che tutto al più si disse, ma possiamo forse leggere al massimo qualche cosa di San Girolamo, perché quello è abbastanza classico. Il resto non era faccenda di scuola, di un liceo in seminario. Senza accorgerci, certamente in buona fede, queste categorie erano assimilate perfino in quei luoghi e forse ancora più in là. Se io penso che ancora nella traduzione dell'Istituto Biblico dei Salmi, fatta nel 1945, è stata buttata fuori la parola ecclesia, perché non è classica ciceroniana ed è stata sostituita col ciceroniano cetus, no? Ecco, allora mi dico che non si sono ricordati che c'è anche un latino cristiano. E questa barriera purtroppo è più profonda e più estesa di quello che forse si pensa. Io sono lieto che questo discorso ci ha aiutati, perlomeno siamo tanto accessibili alla cultura del sospetto, ecco, esercitiamola anche in questo caso un pochino, che forse ci fa bene. E mi rallegro per un altro motivo. L'Istituto di Scienze Religiose è in questo contesto tridentino senza dubbio messo qui anche con l'intento esplicito di non di monopolizzare in nessuna maniera questo tipo di interessi, però di sostenerlo, di sorreggerlo, vero, sia dentro sia fuori dell'università, vero, quanto possibile. Mi ha aiutato una volta di più al vivo a capire meglio anche la missione, vero, che l'istituto nostro ha, e io di questo sono vivamente grato. D'altro canto, è sempre stata, come dicevo prima, una delle difficoltà maggiori per mettere mano a questo mondo di cose, la carenza di testi tradotti e presentati bene, insomma accessibili, perché cosa si mette in mano? Tanto più che, disgraziatamente, il contatto con la lingua latina, vedete che insomma, è andato rarefacendosi a questo modo. Per questo, apprezzo ancora una volta di più, l'occasione che il professor Quacquarelli ci ha offerto di ricordarci degli sforzi di presentazione di traduzioni buone, accessibili, vero? Anche i problemi organizzativi, economici non sono indifferenti, perché insomma è una letteratura che deve conquistarsi la strada, ecco, compresi i padri non greci e latini, degli scoperti che vanno fatte in tutti questi rami, vero, della patrologia orientale, insomma da questo lato possiamo rallegrarci sul serio che i sussidi che oggi sono a nostra disposizione, oggi perlomeno non mancano, abbiamo una scusa in meno per dire non possiamo occuparci del settore, perché una certa barriera qui da questo lato è caduta, e quindi insomma io mi felicito di questo e auguro anche per lo sviluppo di questa impresa di traduzione e di presentazione dei testi patristici veramente il futuro migliore e il riconoscimento più largo. Grazie ancora a tutti.